presenta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e come già recitava, diciamo, il claim prima del programma, siamo in diretta oggi da Vicenza, prima tappa di un insieme di tappe che compieremo assieme a una delle più grandi banche italiane, c'è chi dice la più grande, ma non voglio entrare nella competizione che è Intesa San Paolo, e siamo nel cuore, oggi giornata mondiale del risparmio, parleremo anche del risparmio, dell'indagine che è stata presentata a Roma alla presenza dei massimi vertici italiani. Dicevo, siamo nel cuore di quello che a suo tempo abbiamo chiamato il terremoto del risparmio, perché Vicenza, è inutile girarci attorno, assieme a Treviso ha rappresentato la capitale poco invidiata e poco invidiabile del crack del risparmio che è avvenuto per via di quello che è successo con la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, due banche che sono state, come molti di voi ricorderanno, acquisite alla fine dello scorso luglio proprio da Intesa San Paolo, e sarà anche l'occasione per capire che cosa stia cambiando e come stia cambiando anche il modo di erogare credito, al di là di quello che deciderà la Banca Centrale Europea. La bozza è ancora in fase di discussione, quindi nuovi criteri sul modo in cui dovranno essere contabilizzati nei bilanci bancari le sofferenze dal 1 gennaio 2018. Non abbiamo ancora capito se le prime indicazioni diffuse, che hanno accolto molta resistenza e dubbi da parte soprattutto delle imprese non solo italiane, anche delle banche spagnole oltre che italiane e in parte francesi, verranno poi adottate. Ma oggi ragioneremo di come sta cambiando il credito in un'area, inutile anche qui girarci attorno, che con tutta la parte centro-nord, ma soprattutto Lombardia e Nord-Est, sta dimostrando e registrando i segnali più interessanti di ripresa economica, legata come sempre soprattutto all'export, ma anche i tassi di occupazione sono tornati in molti casi su livelli vicini ai livelli pre-crisi, i tassi di occupazione ma soprattutto quelli di disoccupazione. E stiamo parlando di un'area che vale più o meno il 13%, mi riferisco chiaramente al Triveneto, non al Veneto in senso stretto, ma al Triveneto, ossia Friuli, Venezia Giulia e Trentino, vale circa il 13% del PIL italiano, cioè 210 miliardi di euro, con un PIL pro capite che varia dai 29.000 30.000 euro pro capite del Friuli ai 34.000 del Trentino. Il Veneto si colloca in mezzo, ma in questa regione si contano circa 800.000 tra micro e piccole imprese, cioè imprese che vanno fino a un massimo di 50 addetti. Le esportazioni delle tre regioni valgono 80 miliardi di euro su 400 miliardi complessivi, quindi siamo a un quinto e siamo all'equivalente di 4 manovre finanziarie ogni anno che vengono, diciamo, come risultato di quanto il Veneto e le tre regioni, scusatemi, riescono ad esportare. Ne parleremo, dicevo, è oggi anche la giornata del Mondiale del Risparmio e come sempre è stata presentata a Roma anche sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica la ricerca che si associa alla giornata. Domani tutte le celebrazioni, la ricerca presentata il giorno prima è una ricerca condotta da Ipsos che viene pubblicata ormai da 17 anni e nel rapporto che hanno gli italiani con il risparmio, diviso in due macro aree, ne parleremo più avanti. Migliora la situazione delle famiglie, questo emerge dalla ricerca, ma la crescita e il miglioramento di questa fiducia e definizione della situazione economica delle famiglie è soprattutto al nord, mentre centro e in particolare il sud arrancano. Solo il 6% degli italiani comunque ha dichiarato che nel 2017 la situazione economica è migliorata, il 35% ha detto che ha mantenuto con facilità il proprio tenore di vita, un po' più alta rispetto al 2016, erano il 32%, mentre il 42%, un po' più bassa ma sempre molto alta, erano il 44% l'anno scorso, ha dichiarato di aver sperimentato anche quest'anno difficoltà nel mantenere uno stile, il proprio tenore di vita, che significa che non siamo alla metà, ma ancora il 42% ha difficoltà o a mantenerlo o comunque come si diceva una volta, ad arrivare a fine mese. Di questo parleremo anche della manovra di bilancio, la manovra finanziaria, o manovra di bilancio come si chiama adesso, vi sono varie novità intervenute e come sempre i mercati finanziari. Per quello che riguarda Milano siamo a un rialzo dello 0,30%, Parigi invece è invariata, così come lo è Francoforte, e anche Londra invariata negativa, cioè dello 0,2%, Dow Jones meno 0,40%, e i titoli oggi a Milano vanno particolarmente bene: Saipem più 5,13, Tenaris più 2,30, ST Microelectronics più 2 come Luxottica, l'1,70 lo guadagna Ferragamo, l'1,5 SNAM, l'1,1 è il rialzo di Campari, lo 0,80 quello di Mediobanca e Fineco, ma anche Ferrari e Buzzi Unicem. Chi perde? Italgas meno 2,30, Unicredit e Leonardo meno 1%, Ubibanca meno 0,90, Mediaset meno 0,60%. Ultimo numero come sempre quello per i vostri SMS: 349 238 6666, sia per SMS che WhatsApp. Partiamo subito con la notizia in breve. Allora, per quello che riguarda l'economia internazionale, oggi la Spagna di nuovo fa notizie, come l'ha fatto lungo tutto il fine settimana e nelle ultime settimane. C'è un dato sul PIL spagnolo interessante, perché è in linea con le attese ed è un PIL sostenuto, comunque più 0,8% nel terzo trimestre. Chiaramente ancora presto per dire se vi sarà un effetto anche economico dopo quello che è successo e sta succedendo in Catalogna. Rallenta invece l'inflazione in Germania all'1,5%, lo dico perché contro l'1,8 precedentemente stimato, perché sappiamo che l'inflazione è l'elemento che sta guardando la Banca Centrale Europea per capire cosa fare sui tassi, anche se Mario Draghi la settimana scorsa ha detto insomma, che ci metterà un bel po' di tempo prima di rialzare i tassi di interesse, e comunque il rallentamento dell'inflazione tedesca va nella direzione della banca intrapresa dalla Banca Centrale Europea. E continuano le buone notizie per il nostro debito. Già la settimana scorsa abbiamo avuto un nuovo minimo storico nel rendimento negativo dei bot a 6 mesi, con un'ottima domanda. Oggi il BTP a 5 anni è calato sotto il 2% di rendimento, all'1,86% contro il 2,20% precedente. E così come il BTP a 10 anni all'1,86%, il BTP a 5 anni è allo 0,58% contro lo 0,83%. Siccome il BTP a 10 anni è quello che viene più utilizzato anche per lo spread, notare che sotto il 2% è una cosa non da poco. La domanda è buona, 1,5 volte per il quinquennale rispetto all'offerta, e invece 1,4 volte, leggermente in calo, per il BTP a 10 anni. Ma comunque è chiaro che l'effetto acquisto da parte della Banca Centrale Europea, che si compra parte del rischio Italia, continua a riverbarsi sull'andamento dei titoli di Stato. Alcuni di voi mi chiedono della manovra, ne parleremo. Comunque è stato bloccato l'aumento dell'IVA, le famose clausole di salvaguardia per il 2018, bisognerà trovare poi i soldi per il 2019, ma questo sarà l'obiettivo del 2018, 38 miliardi in più, ma attenzione, per il fondo investimenti, già finanziato a 47 miliardi fino al 2032, e adesso si aggiungono altri 38 miliardi, cresce la platea per il bonus IRPEF a 80 euro, ma ripeto, ne parleremo in maniera più estesa più avanti. Il bonus permanente per l'assunzione dei giovani sotto i 30 anni, che per solo il 2018 varrà anche per chi non ha ancora compiuto 35 anni, lo sgravio del 50% dei contributi con un tetto a 3.000 euro per 3 anni, che scendono un solo anno in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato. L'Alitalia oggi, nonostante le dichiarazioni del premier Paolo Gentiloni, che ha detto penso che abbiamo in mano diverse offerte importanti sull'Alitalia, l'Alitalia oggi dopo la riunione tecnica al Ministero del Lavoro tra i rappresentanti sindacali e l'azienda, inizialmente la proposta di 1.800 lavoratori in cassa integrazione, si è arrivati a un accordo di cassa integrazione straordinaria per 1.600 lavoratori fino ad aprile. Scende anche il numero dei lavoratori in cassa integrazione a zero ore, che passa da 400 a 320. Ancora una notizia prima di iniziare a parlare di risparmio. Oggi lo trovate su Sole 24 Ore, nel rapporto Lega Ambiente e Ambiente Italia sulla salute, su quanto verdi sono i nostri capoluoghi, o non verdi, i nostri capoluoghi di provincia, vede Mantova come regina dell'ambiente. Il 24esimo rapporto ecosistema urbano, appunto Sole 24 Ore assieme a Lega Ambiente e Ambiente Italia. Tra l'altro la città più emiliana delle Lombarde, come si chiama ogni tanto Mantova, ottiene i voti migliori nella raccolta differenziata, nella ciclabilità del territorio, nell'estensione delle strade pedonalizzate e nella quantità di alberi. Praticamente le prime 10 sono le stesse di un anno fa. C'è qualche cambiamento in fondo alla classifica. Comunque Mantova segue Trento, poi Bolzano, Parma, Pordenone, Belluno, Macerata, Verbania, Treviso e Oristano al decimo posto. Gli ultimi 5 posti, quanto a qualità del verde, ma non solo diciamo la presenza di verde, ma anche dell'approccio ecologico, gli ultimi 5 posti sono quelli di Enna al 104esimo posto, 103esimo per Brindisi, 102esimo per Viterbo, 101esimo per Palermo e 100esimo per Catania. Allora, dicevo, oggi il rapporto, l'indagine sul mondo del risparmio, domani appunto le celebrazioni della giornata mondiale del risparmio, come sempre le organizza, il riferimento è l'ACRI, l'associazione delle casse di risparmio italiane. La ricerca ACRI Ipsos, che poi commenteremo, vede comunque meno timori di crisi e una leggera ripresa dei consumi, il che, lo dico chi sta scrivendo al 349-238-6666, come spesso ricordiamo, non vuol dire che tutto vada bene, vuol dire che il paziente sta migliorando, ma è ancora un paziente in convalescenza. Ci siamo? Però se migliora la salute del paziente pur convalescente, qualunque medico ne prenderebbe atto, non continuerebbe a dire sei messo come prima. Dicevo, meno timori di crisi, riprendono un po' i consumi. L'identikit l'ha tracciato come sempre Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, e lo ha fatto in questo caso al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Moderatamente ottimisti, perché ovviamente la preoccupazione continua a permanere rispetto alla situazione di crisi che ha toccato il nostro paese, però appunto il vantaggio delle ricerche trasversali, quelle fatte nel corso degli anni, e la ricerca che facciamo per l'ACRI ormai a 17 anni di vita, ci consente di cogliere anche dei fenomeni di cambiamento, e il cambiamento forse più importante di questa rilevazione è proprio questo, cioè il fatto che c'è un aumento della percentuale di coloro che si dichiarano soddisfatti per la propria situazione economica, tocca il 56%, quindi una crescita non da poco, che è il dato che qui ci colpisce di più e che aumenta la divaricazione territoriale, cioè abbiamo le regioni del nord dove questo valore è decisamente più elevato, supera il 60%, 64-69% addirittura, mentre nelle regioni centro-meridionali abbiamo un arretramento, quindi un pochino più di fiducia, che però va di pari passo anche con la crescita dei consumi. In tutto questo il risparmio come sta andando? È diminuito di 3 punti la percentuale di coloro che hanno dichiarato di aver risparmiato negli ultimi 12 mesi, è una diminuzione però non legata a una situazione di maggiore difficoltà economica, ma una ripresa dei consumi. Tanto è vero che forse il dato più interessante è proprio questo, che le famiglie in saldo negativo, cioè coloro che devono attingere risparmi accumulati per far fronte alle spese o addirittura chiedere soldi a prestito, in questa rilevazione si attestano al 21%. 21% è un dato in arretramento forte, basti pensare che nel 2012-2013 erano 31%, quindi sempre meno persone che devono ricorrere al decumulo del risparmio o chiedere soldi a prestito. E anche qui sempre meno persone non significa che non ci siano persone, significa che si sta riducendo la percentuale di chi deve attingere risparmi per far fronte alle spese quotidiane. Dunque, dicevamo, prima tappa di un giro per l'Italia che compieremo assieme a Intesa San Paolo sui territori. La banca ha una fortissima, non è l'unica per carità, ma ha una fortissima vocazione con i territori e con il credito dei territori. La settimana scorsa abbiamo commentato tra l'altro il rapporto Intesa San Paolo, anche qui un rapporto fatto con Prometeia in questo caso, in cui sostanzialmente la redditività dei vari settori produttivi è tornata ai livelli pre-crisi grazie soprattutto alla meccanica industriale, e comunque una previsione che cresceranno più della media i settori a medio alto contenuto tecnologico: autoveicoli, moto, farmaceutica, largo consumo, cosmesi ed elettronica. Però questo è anche il territorio in cui, come dicevo all'inizio, tra qui e Treviso, insomma, c'è stato l'epicentro del terremoto del risparmio, il fallimento di due banche, che nulla toglie per carità a quello che è successo al Monte dei Paschi, anche se lì abbiamo assistito più a operazioni diciamo in cui si è creato un debito per operazioni assolutamente rischiose e non gestite, mi riferisco a Santorini e Alexandria. Abbiamo visto situazioni analoghe chiaramente con le quattro banche, assieme anche a Cassa Risparmio di Genova, quindi Etruria, Marche, Ferrara e Chieti, dove anche lì c'era stato un problema enorme di affidamenti fatti in maniera così, diciamo, apparentemente inspiegabile. Poi ci pensava la magistratura e anche la commissione parlamentare per l'indagine sui crack bancari. Qui però si è creato un danno enorme nel risparmio, in un tessuto produttivo assolutamente intenso. Abbiamo calcolato che più o meno sono stati bruciati 17 miliardi di risparmi in quest'asse che va tra Vicenza e Treviso, con tutto un insieme di pratiche, non solo gli affidamenti dati, voglio essere buono, alla Carlona, ma anche i prestiti baciati, quindi i prestiti dati per comprare azioni, il negare che le azioni avevano un valore fuori da ogni logica di mercato, azioni non quotate che scendono nella Vicenza da 62 euro, poi vanno a 40, poi vanno a 9, poi vanno a 0, senza che il risparmiatore riesca mai a venderle. E tutto questo ha distrutto risparmio, non ha solo distrutto possibilità di credito, in primo luogo ha distrutto risparmio. Lo dico perché la rinascita e il rialzare la testa di questa, di quella che qualcuno chiama la dorsale dell'A4, cioè la Torino-Venezia, è sotto gli occhi di tutti, ma anche le ferite sono ancora molto fresche. Ne parliamo oggi con il direttore regionale dell'area Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, di Intesa San Paolo, Renzo Simonato. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Partiamo dai dati di carattere macroeconomico, poi vediamo come riuscite a garantire e erogare credito e in che modo, con le nuove tipologie distrettuali. Però, insomma, le ferite, voi avete fatto questa operazione a luglio in cui avete acquisito anche gli sportelli e le filiali della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Ricordo che sono oltre 200.000 i soci coinvolti in questo. Sono circa 900 sportelli. Prima tagliamo subito la testa al toro: il processo di razionalizzazione, se ben ricordo, prevede 600 chiusure. Nella parte che lei ha, diciamo, come delega, quindi tutto il Trivento, quali saranno le chiusure e quali saranno gli accorpamenti? Poi veniamo al resto. Sì, se mi permette fare un passaggio su cosa significa Intesa San Paolo in questa macroregione. Quindi noi abbiamo, come il marchio CR Veneto, che raggruppa tutte le filiali di Intesa San Paolo precedentemente, insomma fino a qui gestite, abbiamo circa 600 filiali in tutto il Triveneto, e più da luglio, come ricordava, abbiamo acquisito circa 406 filiali con alcune attività, perché non dimentichiamoci che tutti i crediti deteriorati sono rimasti nelle vecchie banche in liquidazione coatta. Quindi abbiamo acquisito i crediti in bonis più la raccolta e circa 400 filiali, delle quali già da subito, dall'8 dicembre, quando faremo l'accorpamento informatico, 25 verranno chiuse e una settantina verranno accorpate informaticamente, già da subito. E quindi questo subito, a percorso ultimato? A percorso ultimato dovremo chiudere entro due anni 600 filiali in tutta Italia, e quindi la nostra parte la faremo e vedremo quale sarà la chiusura. Insomma. Veniamo al dato congiunturale, cioè per come la vedo io, qui abbiamo un'economia da sempre fatta di piccole e medie imprese, con una grossissima vocazione all'export, ma con una forse maggiore assenza di Già sono pochi in Italia le grandi imprese, ma qui erano ancora meno. Se io vado a vedere la fotografia rispetto alla Lombardia, al Piemonte e anche altre parti d'Italia, diciamo una configurazione, morfologia di impresa che assomiglia poi a quella che noi troviamo in tutta l'asse cosiddetta la dorsale adriatica. C'è grande specializzazione, medie e piccole, ma anche le medie con una grossa vocazione all'export, le abbiamo chiamate in alcuni casi multinazionali tascabili, perché appunto le dimensioni non erano enormi, che però va in crisi, come tutto un sistema produttivo, dal 2007-2008 in poi. Riesce a rialzare la testa in questi anni grazie all'export, ma si riorganizza, come abbiamo raccontato molte volte, cioè i distretti, in senso stretto, scusate il gioco di parole, quindi un'area geografica monoproduttiva sostanzialmente, in cui tutta la filiera si svolgeva tra, penso ad Arzignano per citare uno dei più conosciuti, ma insomma in un'area geografica molto limitata, dove tu avevi la filiera da monte a valle e tutti i fornitori e subfornitori, diventano qualcos'altro. Cioè la parte geografica non è più così importante, il distretto e la filiera, io posso essere anche un grande produttore di calzature, ma vado a cercarmi i fornitori non necessariamente nell'area vicentina, posso cercarli in Piemonte come nelle Marche, laddove ho la qualità migliore. Quindi resta il distretto inteso come grande competenza e know-how su un prodotto, ma non è più geograficamente così limitato, tant'è che un grande studioso dei distretti come Daniele Marini li chiama dislarghi, ossia non sono più stretti in un'area geografica ma vanno lungo tutta la penisola. Questa è la filiera del valore, cioè io vado a cercarmi il fornitore o diciamo la rete commerciale là dove mi conviene di più, lasciamo stare che sia vicentino, che sia appunto marchigiano o quant'altro. Come fate voi a erogare credito con un distretto che non è più geograficamente definito ma è definito solo sul prodotto che va a fare? Allora, ha fatto bene a ricordare questa caratteristica che è soprattutto del Triveneto, è una caratteristica distrettuale, non è esaustiva ma è prettamente distrettuale, il che significa che molte lavorazioni sono deverticalizzate, quindi molte aziende produttrici per questa filiera, poi per il champion che poi esporta all'estero, hanno garantito in questi anni un passaggio da prodotti di minor valore aggiunto a prodotti di alta qualità e quindi maggior valore aggiunto. Questi i nostri imprenditori sono stati bravi, sono andati nel mondo a cercare nuovi mercati, li hanno conquistati e grazie anche a questa capacità dei fornitori, che molte volte sono fornitori esclusivi, valorizzare il loro prodotto. È chiaro che per noi bancariamente è più difficile erogare credito a un fornitore che ha un solo cliente o comunque, però ci siamo fatti validare dalla BCE un rating che tiene conto di queste valutazioni di filiera effettuate poi in collaborazione con la Voi non date il voto al soggetto singolo ma alla filiera in cui è inserito? No, non è proprio così, nel senso che per prima cosa diamo il voto al fornitore secondo quelli che sono i canoni tradizionali, però poi li integriamo con effetti intangibili anche sulle valutazioni che ci dà il capofiliera, sulla strategicità di questo cliente, sul fornitore, sulla capacità di questo fornitore di essere puntuale, preciso, insomma sulla strategicità per lui di questo cliente. Quindi noi possiamo migliorare il rating di qualche noce, quindi permettere un accesso al credito a condizioni migliori o comunque per mettere un miglior accesso al credito. Cioè, mi faccio capire, se io sono un fornitore o subfornitore del mondo delle calzature della Riviera del Brenta, così ci capiamo tutti, magari posso essere dislocato non nella Riviera del Brenta, posso essere appunto nella logica in cui ho detto dislocato dovunque, però il fatto che restiamo in Veneto, quindi potrei essere in Trentino, in Friuli o in Veneto, io ho il mio voto di credito, il mio merito di credito come una volta, poi però voi ci aggiungete anche il fatto o meno che io sia in filiera, cioè se io fornisco la mia fibbia piuttosto che, cavolo ne so, il tacco o qual è, adesso non voglio entrare nel dettaglio perché non faccio ancora il calzolaio, però può sempre darsi un giorno, e sono il fornitore unico o quasi unico se non esclusivo di un grande marchio che va molto bene e il proprietario di questo marchio vi dice Barisoni mi serve perché la fibbia che fa lui la fa solo lui, abbiamo un contratto a 5 anni, questo va a migliorare il mio merito di credito? Esattamente, mentre fino a poco tempo fa ci si poteva basare sul reverse factoring, no? Che continuiamo a fare, cioè sostanzialmente avendo un credito accettato dal cliente finale, noi valutiamo il merito creditizio del debitore ceduto, in questo caso del champion. Con questo nuovo modo possiamo valorizzare anche il credito che facciamo non semplicemente di smobilizzo, ma anche il credito ordinario per acquistare macchinari, per esempio. Quindi ha un accesso al credito più facilitato. Ne parliamo perché vorrei concludere questo approfondimento dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Oggi non c'è la diretta video perché siamo appunto a Vicenza, ce ne possiamo fare anche una ragione, ma c'è come sempre anche la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Entra nel mondo radiofonico e televisivo con le nuove competenze 4.0. Master full time della Business School del Sole 24 Ore e Radio 24. Radio, TV e web content. Con diploma e stage. A Milano dal 27 novembre. Per candidarsi alle selezioni e borse di studio, www.radiomaster.ilsole24ore.com. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui a Vicenza, nella sede principale del gruppo Intesa San Paolo. Chi mi chiede ma è un'operazione spot? No, gireremo il territorio, quindi siamo adesso nel nord-est, poi faremo Lombardia e poi anche il sud, i territori, e questa è una prima tappa, poi vedremo nel futuro. Intanto i prossimi mesi cercheremo di andare ciclicamente, una volta al mese o un po' di più, nei vari territori, sempre con lo stesso taglio, cioè capire che cosa succeda, che stia succedendo al credito effettivo. Ricordo che appunto in quest'area si sommano due elementi: uno molto positivo, una vocazione all'export che ha riportato la redditività ai livelli pre-crisi, e l'altro invece il crack bancario più importante purtroppo degli ultimi anni, se sommiamo Veneto Banca con Popolare di Vicenza. Siamo con Renzo Simonato, appunto direttore regionale Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa San Paolo, che ci ha chiarito prima come erogate, che cosa vuol dire erogare credito a un'impresa che è in una filiera e ha un, lei lo ha chiamato Champions, ma insomma ha una capofila le cui indicazioni vi servono anche per migliorare il merito di credito. Come sta andando l'erogazione del credito al di là delle sofferenze bancarie, di quello che dovesse decidere dal 1 gennaio in poi la Banca Centrale Europea sul nuovo modo di contabilizzare le nuove sofferenze, perché appunto in quest'area, al di là del dramma che si è verificato per i risparmiatori, vi è stato anche un dramma parallelo per le piccole e medie imprese, e quando tu hai Veneto Banca e Popolare di Vicenza in crack, è chiaro che l'erogazione del credito si ferma. Allora, sicuramente per quanto riguarda la ex rete di Intesa San Paolo, quindi Cassa di Risparmio del Veneto, le darei un dato: nel 2014 abbiamo erogato a medio e lungo termine a famiglie e imprese 2,2 miliardi, nel 2016 ne abbiamo erogati 4,5, e quest'anno stiamo salendo a un ritmo intorno al 10% rispetto all'anno precedente, quindi il credito alle imprese lo stiamo dando. Da luglio, da quando poi sono entrate nel gruppo Intesa San Paolo anche, diciamo, i crediti in bonus delle due ex banche, anche queste banche hanno ricominciato a erogare credito e hanno ricominciato anche poi l'attività commerciale, tant'è vero che la raccolta sta ritornando sui, mentre prima c'era un prelievo di raccolta, dal primo di luglio, insomma da quando al 25-26 di giugno c'è un recupero anche della raccolta in queste filiali. Come va il risparmio? Dunque, qualcuno mi sta scrivendo da Vicenza: aiuti gli azionisti delle Popolari Venete. Ragazzi, abbiamo fatto decine di puntate, io più che raccontare anche i livelli di collusione che c'erano nel territorio, citare casi concreti, andare a raccontare che cosa succedeva ad alcuni ex ispettori, all'ex ragioniere dello Stato, alla procura che ne indagava, all'ex procuratore Foiadelli che da Vicenza si sposta a Treviso, e aggiornarvi quotidianamente, non so più cosa fare, nel senso che mi rendo benissimo conto che gli azionisti hanno subito un danno incredibile. Continueremo a tenervi aggiornati anche sullo sviluppo delle indagini e dell'inchiesta, perché è ovvio che tutto non possa passare alla commissione parlamentare, che tra l'altro ha pochi mesi tra virgolette di vita, visto che a marzo-aprile si andrà a votare. Qualcuno mi chiede se intendete fare concorrenza alle casse rurali in Trentino e alla Sparcasse, Fortini dei piccoli risparmiatori trentini. Ma in Trentino Alto Adige, perché sono due province molto diverse, ma per certi versi simili, ma anche molto diverse, noi stiamo cercando di incrementare la nostra quota di mercato. Quindi la risposta è sì. La risposta è sì, è una bella zona, è una zona viva, sana, e quindi sì. Bene, queste, quindi anche le sparcasse sono avvisate. Andiamo avanti invece con la parte che riguarda il credito. Che difficoltà e che richieste di credito state registrando? Guardi, parlo ancora di imprese e poi adesso arriviamo ai risparmiatori. Guardi, sempre di più stiamo registrando richieste di credito di quella che adesso viene chiamata la quarta rivoluzione industriale, no? di rinnovamento degli impianti. Per darle un'idea, fatto 100 gli investimenti fissi lordi che venivano fatti nel 2008, nel 2016 questi investimenti erano il 76%, complice probabilmente anche l'incremento dei tassi che c'è stato nel 2011, in Veneto c'è stata una diminuzione degli investimenti fissi. Mentre in Germania, per esempio, c'è stato un incremento del 17% nello stesso periodo. Questo è un tema importante di rinnovamento degli impianti che hanno i nostri imprenditori. Lo stanno facendo, vediamo sempre di più. Quindi dice Industria 4.0, iperammortamenti e superammortamenti come effetto anche? Sì, però io credo che al di là, certo, iperammortamenti e superammortamenti, ma io credo che sempre di più sia gli imprenditori abbiano capito che sia proprio anche un cambio di paradigma il 4.0, un rinnovamento digitale che va al di là del rinnovamento degli impianti, e credo anche che sia comprensibile che sia un rapporto nuovo digitale con i consumatori, cioè sempre di più gli imprenditori si rendono conto che tramite Internet delle cose, no? Internet of Things, sempre di più si riceveranno informazioni dai consumatori e quindi sarà importante avere queste informazioni, e quindi è un cambio paradigmatico per certi versi. Sì. Ma mi diceva, da questo punto di vista la domanda è ripresa, ma con che qualità rispetto al pre-crisi? Ma guardi, in queste zone devo dire che, allora, a prescindere dal fatto che noi abbiamo lasciato il credito deteriorato in quelle banche, quindi abbiamo clienti di credito in bonus nelle nuove banche, noi stiamo facendo credito in maniera significativa e soprattutto per rinnovamenti, magari 2 anni fa o un anno scorso potevano esserci dei consolidi di breve termine, adesso è molto anche la parte di investimenti. Qual è il credito, la domanda di credito che manca all'appello? Io credo che manchi all'appello quello che si faceva nel 2007-2008, che è l'investimento immobiliare. No? Quello, il mattone ancora. Il mattone, poi se vuole possiamo aggiungere anche una forte componente di energy, no? Di finanziamenti al fotovoltaico, per volgarizzarla, che venivano fatti nel 2010-2011, cosa che adesso non avviene più a quei livelli. Ecco, fronte di risparmio invece, chiudiamo su questo, è chiaro che voi raccogliete anche appunto un'eredità pesante, ma noi abbiamo visto degli ottimi dati, li pubblicati sulle 24 ore, sull'andamento dei PIR, dei piani di investimento, che adesso si dovrebbero anche aprire al settore immobiliare. PIR a parte, che cosa registrate sulla ciclicità del risparmio? Beh, c'è un passaggio sicuramente al risparmio gestito, al risparmio asset under management. È sicuramente è importante perché si diversifica quindi di investimento, si diversifica anche l'asset allocation, e quindi i clienti lo stanno richiedendo sempre di più. Le giro una domanda prima di concludere che mi arriva dal 349-238-6666, le start-up. Siccome noi abbiamo ogni venerdì un appuntamento con le start-up e molte volte, direi nel 90% dei casi, non sono mai state finanziate dalle banche. Allora c'è chi dice ma la banca non deve finanziare la start-up, è troppo rischioso, ci sono altri strumenti, crowdfunding, business angels e quant'altro. Però uno potrebbe anche obiettare, beh, insomma, mollare completamente la presa sul mondo delle start-up o delle, a me dispiace usare così tanti inglesismi, degli spin-off, cioè di chi da un'azienda stacca un pezzo per lanciare una nuova società, forse è una resa. Come vi state comportando con le start-up? Beh, a prescindere che ci sono degli strumenti di garanzia che arrivano fino all'80% con la legge 662 che garantiscono chi accompagna le start-up con dei finanziamenti. In linea di massima le start-up possono essere finanziate, possono essere chiaramente finanziate anche dai business angels, però io credo che una delle cose più importanti che possa essere fatto è essere messe in comunicazione con delle imprese già esistenti, in maniera che li facciano da tutor o comunque che li conducano. Ecco, quindi l'accompagnamento, l'adottare delle start-up possa essere uno strumento anche per aiutare l'imprenditorialità di questi magari giovani che vogliono investire. Noi come banca possiamo metterli in comunicazione, perché sempre di più abbiamo una rete di clienti molto importante in Italia, quindi riuscire a metterli in comunicazione è importante. Abbiamo uno strumento informatico che si chiama Tech Marketplace, è una piattaforma informatica che mette in comunicazione aziende start-up, ne abbiamo un migliaio circa, ma non solo italiane, anche israeliane, anche statunitensi all'interno di questa piattaforma, e ci sono circa 4.000-5.000 aziende, adesso non mi ricordo il numero esatto, ma insomma in quest'ordine, che sono aziende diciamo mature che sono su questa piattaforma per cercare innovazione. Allora, in realtà non era l'ultima domanda, perché qualcuno mi scrive: ma avete scaricato i piccoli imprenditori? Allora deve sapere che il nostro pubblico è sempre molto verace, molto incalzante, a partire dal conduttore. Che cosa state facendo per le piccole imprese? Adesso io so benissimo che i piccoli si sentono storicamente più distanti e più abbandonati dalle banche. Questo valeva anche, lo dico con totale onestà, anche prima della crisi, anche fino al 2008 la critica arrivava sempre dal piccolo imprenditore che si sentiva, non dico abbandonato, ma più trascurato dalle banche. Per contro, molto spesso il mondo bancario diceva sì, bisogna capire qual è il merito di credito di questo piccolo imprenditore, perché delle volte i capitali erano bassi, gli investimenti non sempre venivano messi in azienda, ma comunque per i piccoli imprenditori. Ma guardi, io credo che i piccoli imprenditori li accompagniamo, addirittura pensi che abbiamo inserito all'interno della filiera delle imprese, quindi dei centri imprese, addirittura le aziende piccole. Questo perché? Perché prima possono essere seguite da un gestore in maniera più vicina, più dedicata. Secondo, anche perché abbiamo delle risposte, avendo delegato ai centri imprese ampie autonomie, anche delle risposte più veloci. Quindi non è vero. Io credo poi che le filiere, come si diceva prima, possono essere un elemento che aiutano proprio le piccole imprese che magari possono avere minore accesso al credito per essere valorizzate. Allora, nel ringraziare, intanto vi do il titolo, visto che adesso parliamo di borsa, Intesa San Paolo oggi certa debolezza su tutto il bancario, meno 0,14%, peggio altre banche, adesso ne parliamo. Noi continueremo, ripeto, anche nelle prossime settimane il giro sui territori, e lo vogliamo fare appunto con chi poi i territori li conosce. Noi delle banche parliamo spesso, in alcuni casi parliamo anche male, il che non vuol dire che si possa andare in giro per i territori non con il diavolo, ma insomma con chi insomma rappresenta l'altra parte, per capire quello che sta capitando. Grazie quindi a Renzo Simonato, direttore regionale di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa San Paolo. Andiamo sul traffico e poi la borsa che ha chiuso con un più 0,40%, è l'unica, è Milano positiva, Parigi invariata, Francoforte invariata, Londra meno 0,30, Dow Jones meno 0,32%, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta. Allora, borse, diciamo borse contrastate, devo dire sono contrastate per modo di dire, nel dentro forse i listini sono tutte invariate, Milano invece più 0,40%, no, stavo leggendo il titolo delle agenzie, borse contrastate, non mi sembra così contrastate, comunque Saipem più 4,60, Tenaris più 2,30 come STMicroelectronics, Ferragamo più 2% come Luxottica, Snam più 1,70, poi Ferrari più 1,1, Fineco più 1 come Campari, Mediobanca e più staccata Fiat Chrysler più 0,60%. Italgas meno 2,50, Unicredit meno 1,20, Leonardo meno 1, UbiBanca meno 0,80, Azimut meno 0,60, mezzo punto lo perde Banca Generali, ma anche Jux, Net-a-Porter e Mediaset, Prismia meno 0,40. Di Intesa San Paolo abbiamo già detto meno 0,14, Banco BPM invariato. Vorrei partire dal Banco BPM perché domani è stato ufficialmente convocato il Consiglio di Amministrazione di Cattolica, chiamato ad approvare l'accordo negoziato da Alberto Minali, l'amministratore delegato, con il consigliere delegato del Banco BPM Giuseppe Castagna. Domani dovrebbe arrivare l'intesa a questo punto. Il 31 ottobre infatti scade il termine dell'esclusiva concessa dal banco a Cattolica. Ciao Condi, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Però mi sembra che il Banco BPM si sia mosso poco alla fine. Sì, diciamo che aveva guadagnato di più prima, poi qualche realizzo nel finale, a fronte comunque di una seduta che non è stata particolarmente brillante per molti istituti di credito. Unicredit è arrivato a perdere anche l'1,2%, UbiBanca lo 0,8%, Banco BPM comunque è rimasta attorno alla parità, come dicevi tu, alla vigilia comunque di una giornata importante, perché si potrebbe arrivare a chiudere un accordo importante con Cattolica per una joint venture sulle polizze. Qui, come sappiamo, i denari in ballo sono molto importanti. Banco BPM aveva in essere due accordi, uno con Aviva, uno con Unipolsai, li sta rimpiazzando entrambi, anche se con Unipolsai poi andrà sciolta anche una questione appunto sul prezzo per lo scioglimento di questa joint venture. Veniamo invece a chi molto bene si è mosso oggi, soprattutto Saipem più 4,60% e Tenaris più 2,36%. Ora il petrolio oggi il rialzo a New York a $54 il barile, ha toccato i 60 il Brent. È solo petrolio? Beh, diciamo sì, soprattutto petrolio, perché anche Eni comunque ha guadagnato mezzo punto percentuale. Tenaris c'è, vabbè, l'attesa dei conti che ci saranno in settimana, però è soprattutto il petrolio con il Brent, che è da due anni che non si vedeva a quei livelli. Per quanto riguarda Saipem, ci sono anche le dichiarazioni dell'amministratore delegato Stefano Cao, che ha sottolineato un timido recupero del mercato delle trivellazioni, che è appunto il mestiere che fa Saipem. È un mercato che negli ultimi anni si era contratto in maniera significativa, perché il prezzo del petrolio era molto basso e quindi le aziende non facevano più investimenti. E quindi Tenaris bene più 2,26% sulla stessa falsariga, tu citavi già Eni. ST Microelectronics penso che invece sia poco legata al prezzo del petrolio. CEO. Assolutamente, diciamo che venerdì è stata una seduta da leoni per il Nasdaq, sì. La miglior seduta dal 2002, aveva guadagnato mi pare più del 2%, in più ci sono gli ordini che sembrano importanti per il nuovo iPhone X, di cui ST fornisce alcune componenti, e il tutto fa un mix che per ST significa un nuovo balzo in avanti ai massimi dal 2004 in borsa. Allora, gli altri due titoli dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sono Enrico Ruggeri. Curiose e interessanti le puntate del Falco e il Gabbiano di questa settimana. Bobby Charlton, un gentleman del calcio inglese e mondiale. Si può fare l'Italia anche in un letto tra notti d'amore, e la storia di Virginia Oldoini ci dice che si può. E poi andiamo sulle ali di carta a vivere l'incubo di Edmond Dantès, che avrà la sua rivincita come il Conte di Montecristo. Dal Perozzi di Amici Miei a Nuovo Cinema Paradiso fino al Postino con Troisi, un francese atipico, Philippe Noiret. E per finire Giorgio Aiazzone, l'imprenditore che ha fatto conoscere Biella a tutta Italia, isole comprese. Tutti i giorni alle 3 del pomeriggio il Falco e il Gabbiano su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda e ultima parte di Focus Economia. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa con Ceo Condi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Abbiamo detto dei titoli petroliferi, anche di ST Microelectronics. Ancora due cose rapidamente: Ferrari più 1,1%, ma è soprattutto la soglia che ha toccato. Era arrivata, se ho ben capito, sopra i 100 euro, poi leggerissimamente ritracciato a 99,8. Bene invece anche altri titoli, Italgas no, ed è l'unico energetico che non va bene, meno 2,50%. E poi il Sole 24 Ore, visto che oggi debuttava l'aumento di capitale da 50 milioni di euro. Ceo. Primo giorno di questo aumento di capitale, come spesso avviene in questo genere di operazioni, c'è stato un andamento un po' contrastante tra l'azione e i diritti che poi danno, che vengono comunque negoziati sul mercato, che danno diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni offerte sul mercato. L'azione ha chiuso in rialzo del 20% rispetto al prezzo rettificato di venerdì. i diritti invece hanno perso il 16,5%. Poi ovviamente ci chiediamo cosa significa tutto questo. Esatto. Facendo la somma tra prezzo azione e diritto di venerdì e prezzo azione e diritto di oggi, il tutto ha perso all'incirca il 2%. Quindi è un meno 2%, la differenza tra il prezzo dei diritti di venerdì e il prezzo di oggi e il prezzo dell'azione di oggi e il prezzo dell'azione di venerdì. Ricordo che l'aumento di capitale è da 50 milioni di euro, l'offerta di 4 nuove azioni speciali per ogni azione ordinaria o speciale posseduta al prezzo di 0,96 euro per azione, con uno sconto del 34%, quasi 35% sul TERP, che è il prezzo teorico escluso il diritto sull'aumento. Comunque i diritti di opzione saranno negoziabili da oggi fino al 10 novembre. Gli altri migliori e peggiori: Acotel Group più 19,26, CHL più 14,80, Invest più 11,70, Gefran più 11,50. Il fronte opposto: Advanced Micro Devices meno 20%, Banca Sistema meno 6,90, Tesmec meno 4,40, Jequity meno 3,90%. Grazie anche a Ciao Condi, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi ci spostiamo invece sulla manovra di bilancio e poi sul risparmio degli italiani. 349-238-6666 resta il numero per SMS e WhatsApp. Allora, la manovra, 120 articoli, il disegno di legge di bilancio 2018 approdato in Senato per l'esame parlamentare. La manovra, il testo a questo punto è, come si dice in gergo, bollinato dalla ragioneria dello Stato, sterilizza le clausole IVA, quindi nessun aumento dell'IVA come effetto che vi sarebbe stato se non avessimo trovato le risorse, le famose clausole di salvaguardia, introduce sgravi strutturali per l'assunzione dei giovani, poi rinnovo dell'ecobonus e aumenti per gli statali, la cosa che è stata confermata. La sessione di bilancio appunto inizierà domani pomeriggio con gli stralci. Tra l'altro segnalo che sul Sole 24 Ore di domani vi saranno 6 pagine dedicate alla legge di bilancio che il governo ha presentato al Senato. Alcune di queste pagine avranno la firma di Gianni Trovati, del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Dove sei? Immerso nella tipografia? Ti sento particolarmente intubato? No. Adesso no. Recuperate Trovati dalle pagine che sta scrivendo, è sommerso dalle pagine. Allora, la base di 20 miliardi di questa manovra, l'abbiamo detto più volte, le coperture 9 miliardi e mezzo, 11 miliardi il cosiddetto effetto espansivo della manovra, 3 miliardi e mezzo di tagli alla spesa e 5 miliardi entrate aggiuntive. Il grosso, l'abbiamo spiegato più volte, ma vale la pena ricordarlo, della manovra se lo mangia, per così dire, il disinnescare le clausole di salvaguardia, cioè l'evitare che aumenti l'IVA nel 2018, vale totalmente nel complesso 15 miliardi e 7 su 20 miliardi di manovra. 300 milioni di investimenti pubblici aggiuntivi che diventeranno 1,3 nel 2019. Io però oggi non vorrei leggere le cifre su 2019-2020 perché poi ogni anno vengono ridefinite, quindi leggiamo solo quelle sul 2018 e bastano, perché sai, ogni volta le finanziarie funzionano un po' così: tu stanzi uno per l'anno prossimo e poi 10 per, adesso lo dico buttandolo un po' a ridere, 10 per fra 2 anni, tanto poi devi rifare la legge di stabilità e poi si cambiano le cifre. Le politiche a favore dei giovani: 300 milioni quest'anno, poi 800 anche qui nel 2019 e 1 miliardo e 2 teoricamente nel 2020. Il reddito di inclusione potenziato per 300 milioni. Poi c'è il rinvio di un anno dell'IRI, l'imposta al 24% sul reddito per le ditte individuali. A te l'arduo e gravoso compito, Gianni, visto che ci sono tantissimi dettagli, anche modifiche sui il bonus under 30 che è permanente, invece gli under 35, se ho ben capito, solo il primo anno. Insomma, le novità più forti che sono approdate al Senato. Sì, due. Prima di tutto che dopo tanto penare abbiamo il testo definitivo, appunto, è 2 settimane. Quindi basta con le bozze, basta con le bozze. Adesso okay. Abbiamo il testo definitivo, il testo è in Senato e proprio per questo domani passiamo svariate pagine di approfondimenti, perché non è più un si dice, ma è un testo con la cera lasca. La seconda di contenuto è l'innalzamento di 600 euro della fascia di reddito che dà diritto al bonus da 80 euro. Il bonus Renzi prima si fermava a 26.000 euro, dal 2018 si alzerà a 26.600 euro, producendo svariati effetti a seconda del reddito che tu hai oggi, effetti che saranno in una splendida tabella domani sul giornale. Perché è stata fatta questa cosa? Perché il rinnovo del contratto del pubblico impiego avrebbe alzato il reddito di molti che oggi stanno dentro al bonus, li avrebbe fatti uscire dal bonus, e quindi l'uscita dal bonus sarebbe stato uno scambio sostanzialmente fra 85 euro lordi, cioè l'aumento del contratto, e 80 euro netti che venivano persi per il bonus, uno scambio abbastanza in perdita che è stato tamponato da questa cosa. Il dato importante è che però le novità sul bonus hanno effetto anche per i dipendenti del settore privato, perché è lievemente incostituzionale la strada che pure era stata ipotizzata di distinguere quello che di fatto è il trattamento fiscale tra lavoratori pubblici e lavoratori privati. Quindi i privati ringraziano per l'effetto collaterale, diciamo così, del rinnovo del contratto del pubblico impiego. Gianni, questo è importante, per cui stai dicendo che il tetto dei 26.600 varrà anche per i privati? Vale anche per i privati. Ecco, perfetto. Lavoratori dipendenti di ogni tipo, sale. Sì, certo, basta che tu sia lavoratore dipendente. Esattamente. E quindi, adesso spiego la battuta, perché siccome l'aumento è valso solo per i pubblici, ma tu non potevi dire per il privato applichiamo il vecchio limite dei 25.000 e per il pubblico 26.000, perché eri un secondo dopo fuori dalla Costituzione. Il fatto che vi sia stato un aumento nel pubblico impiego che abbia portato il governo a aumentare la soglia, perché sennò facevi uscire con questo aumento molte persone che solo per l'aumento del pubblico impiego arrivavano a 26.000 euro, va indirettamente a vantaggio anche dei privati, perché anche per i dipendenti privati varrà la soglia dei 26.600 euro di reddito per ottenere gli 80 euro di bonus. Ti ho interrotto, scusami Gianni. No, esatto, poi il fatto è che i contratti si rinnovano anche per settori privati, e quindi il pubblico impiego deve avere una clausola, i chimici, i metalmeccanici o i tessili, certo. Questo avrebbe reso la vita impossibile, diciamo, a qualsiasi sindacato, e quindi alla fine, dopo un po' di ripensamenti, si è deciso di intervenire con questa misura generalizzata. Molte assunzioni nel pubblico impiego, 7.000 nelle forze dell'ordine, 1.500 al Ministero della Giustizia e poi altre centinaia sparse fra beni culturali, regioni e così via, e la proroga di tutti sostanzialmente i bonus principali che ci sono, con un po' di novità per l'eco bonus, in particolare le finestre, gli interventi di risparmio energetico di base, diciamo così, vedranno scendere la propria agevolazione dal 65 al 50%. Confermato, anzi prorogato, anche qui dopo tanti pensamenti e ripensamenti, anche il bonus per l'acquisto di mobili. Naturalmente ricordiamo che il testo è definitivo, nel senso che è bollinato dal governo, ma ora comincia una lunga discussione trattativa. Allora, siccome non posso... La sessione di bilancio inizia domani, ma poi si ferma domani pomeriggio, perché tutta la politica si sposta sulle elezioni siciliane. Ne riparliamo poi la settimana dopo. No, pensavo per Halloween, ma invece che le elezioni siciliane rischiano di diventare Halloween per qualcuno. Comunque, è chiaro, domani 6 pagine sul Sole 24 Ore, con tutti i dettagli, non possiamo ripercorrerli in diretta. Io ne vorrei aggiungere solo 3 modestamente. 1. La nuova detrazione fiscale sull'assicurazione contro le calamità naturali come terremoti e alluvioni, di sconto del 19%. 2. La proroga per altri 2 anni, quindi non è stabilizzata ma viene prorogata per 2 anni, della cedolare secca sugli affitti al 10%, unita allo sconto abbonamenti treno, autobus fino a 250 euro, detrazioni fino a 250 euro per le spese d'abbonamento ai trasporti pubblici locali. 3. Così chiarisco chi mi scrive al 349-238-6666 sugli under 30. Allora, il bonus è permanente se tu assumi un giovane che ha sotto i 30 anni. Per il solo 2018 vale anche per chi viene assunto a tempo indeterminato è a meno di 35 anni. Lo sgravio è del 50% dei contributi con un tetto a 3.000 euro per 3 anni, che scendono a un solo anno in caso tu trasformi un apprendistato in tempo indeterminato. È portabile senza limiti d'età e sale al 100% per l'assunzione dall'alternanza scuola-lavoro. Questo è anche molto importante quando l'alternanza scuola-lavoro viene fatta bene, e ne abbiamo parlato a lungo. Grazie, Gianni Trovati. Traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Focus Economia. Soy el fuego que... Aumentano le famiglie che hanno potuto risparmiare. Voi ricordate che negli scorsi anni, melanconicamente, tutti gli anni c'erano di meno. Aumentano le famiglie che non possono, non riescono a risparmiare. Aumentano le famiglie che per far quadrare i loro bilanci familiari devono indebitarsi. Questo trend, dai dati forniti da Pagnoncelli, è invertito, e quindi aumenta le famiglie che hanno potuto risparmiare nello scorso anno, aumentano anche le famiglie che hanno potuto chiudere i loro bilanci senza indebitamento. C'è un altro dato che mi pare significativo, questo un po' a scapito dei consumi, cioè non c'è più un'ansia sul risparmio, tanto che aumentano i consumi, ma questo peraltro è un dato molto positivo che conferma che la ripresa c'è, c'è la fiducia dei consumatori, e quindi accanto ancora naturalmente a percentuali di coloro che non riescono a risparmiare, di coloro che tengono ma in una condizione proprio di grande impegno, tengono in equilibrio i loro conti, però c'è questo dato positivo. Così il presidente delle fondazioni delle casse di risparmio italiane, Giuseppe Guzzetti, nel presentare a microfono la nostra Alessandra Schepisi, nel presentare la giornata mondiale del risparmio di domani. Oggi presentati i dati, come sempre il giorno prima viene fatta la ricerca, di cui qualcosa abbiamo anticipato anche in apertura. Migliora la situazione delle famiglie, ma prevalentemente al nord, centro e sud arrancano. Questa è la ricerca sugli italiani risparmio di Acri Ipsos. I soddisfatti superano gli insoddisfatti, il 56% contro il 44%, con un incremento di 5 punti percentuali, ma questo rapporto scende nel mezzogiorno e nel centro. Il 6% degli italiani dichiara che la propria situazione economica è migliorata, il 35% che è riuscito a mantenere con facilità il tenore di vita, un po' più alta rispetto al 2016 dove erano il 32%, mentre sono il 42% quelli che dichiarano di avere avuto qualche difficoltà nel mantenere il tenore di vita, 2% in meno. Le famiglie che segnalano difficoltà serie a mantenere il tenore di vita sono il 17%, un punto percentuale in meno. E poi, se ho ben capito, un leggero aumento della fiducia che fa ripartire, o farebbe ripartire anche i consumi, ma dopo 4 anni consecutivi di crescita diminuisce di 3 punti, dal 40 al 37%, la quota degli italiani che afferma di aver risparmiato negli ultimi 12 mesi. E vorrei capire con Andrea Lemanno, che è direttore di ricerca reputazionale dell'Ipsos, buonasera. Buonasera. Come si tengono assieme le due cose? Cioè, se c'è un miglioramento, anche se soprattutto al nord, della situazione economica, di come uno vive la sua situazione economica, e i dati che ho visto, come mai cala la quota di italiani che afferma di aver risparmiato? Cala la quota di italiani che afferma di aver risparmiato perché quest'anno, ancora più che nell'anno scorso, anzi decisamente di più, aumentano gli italiani che dichiarano di aver in qualche modo aumentato i propri consumi o, diciamo, ridotto la riduzione dei propri consumi. Quindi c'è stata un'attenzione al risparmio che ha riguardato chi era un pochino più in difficoltà, mentre chi in qualche modo ne è già uscito da un pochino di tempo ha davanti a sé una situazione un po' più rosea, perché l'altro aspetto che migliora è un certo ottimismo verso il futuro, ha ha deciso di decomprimere una parte di consumi che per tanto tempo sono stati probabilmente rimandati, e quindi c'è una tensione all'aumento di consumo un pochino in tutti gli ambiti. Senta, invece l'investimento ideale, voi dite, per gli italiani non esiste più l'investimento ideale? Non esiste più l'investimento ideale, considerando che per tanti anni l'investimento ideale è stato il mattone. In questo momento abbiamo un terzo di italiani che dice che proprio non esiste, che non saprebbe indicarlo e non sa che cosa poter avere. Abbiamo però comunque un altro terzo che più o meno indica il mattone, un terzo che di nuovo è tornato a indicare i titoli a basso rischio come possibile investimento ideale, fondamentalmente titoli di Stato. E l'ultima cosa che vorrei chiedere invece riguarda, oltre al fatto che non esiste più l'investimento ideale, che cosa significhi anche il risparmio? Perché voi dite, attenzione, non è solo il risparmio dovuto alla, diciamo, alla difficoltà economica che c'è, perché il 71% dei lavoratori è comunque preoccupato per il proprio domani dopo la pensione, ma è anche un atteggiamento neosobrio, ho capito bene? È un atteggiamento più che neosobrio, molto attento. Diciamo, è scomparso un certo tipo di consumo un po' sprecone, un po' leggero. Se riparte il consumo, comunque riparte un consumo molto attento, e quindi il risparmio è molto legato alla capacità di spendere bene, non sprecare, spendere il giusto, in qualche modo fare le scelte che siano oculate, anche se non necessariamente siano volte a tagliare per forza il costo. Cioè, ma il risparmio, il consumo ostentativo, quello degli anni 80 e 90, per capirci, forse non è neanche male che sia scomparso, cioè uno spende ma guardando in maniera molto attenta al rapporto al valore aggiunto più che al rapporto prezzo-qualità? Sì, che poi può essere anche un consumo di lusso, non nulla toglie, però deve essere qualcosa che in qualche modo ha un valore che gli viene riconosciuto, non tanto per consumare. Non tanto perché il bisogno indotto, certo. Esatto, non tanto volto a sprecare, cioè se io consumo una cosa la consumo, non la metto via, non me la metto in casa, non la compro tanto per averla. Allora, io nel ringraziare la direttora Alemanno devo dare una nota di servizio agli ascoltatori. Il mitico uccellaccio Giulio Sapelli, che alcuni hanno chiamato il Divo Giulio, per un elemento personale, oggi non è che ci abbia tirato buca, non poteva esserci, ci sarà domani. Aspettate un giorno, a costo di non condurre più questo programma, vi prometto che Sapelli sarà in onda domani regolarmente. Ringrazio il direttore delle ricerche reputazionali dell'Ipsos, Andrea Alemanno. Auguro a tutti voi buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.